Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. A ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi. Se potessi far vedere la mia bici al me stesso poppante, sarebbe orgoglioso di come sono da grande. Ha le lucine nei pedali, gli specchietti cromati, e c'ha pure la radio a pannelli solari. Buon pomeriggio, buona domenica a tutti pazzi per le e-bike. Siamo andati a curiosare l'Italian Bike Festival, che si è tenuto a Rimini lo scorso fine settimana, unico evento fieristico in Europa aperto al pubblico a non essere stato cancellato quest'anno per Covid. Ebbene, a dominare la scena e incuriosire maggiormente il pubblico proprio le bici elettriche. In questa puntata un piccolo resoconto di questi incontri, delle testimonianze che ho cercato di raccogliere a Rimini, un mercato, quello delle bici, come si sa, in ottima salute, oltre 2 milioni di pezzi che saranno venduti nel 2020, con un mercato trainato soprattutto dalle e-bike, ci ha detto Piero Nigrelli dell'Associazione Nazionale Ciclo Motocicli e Accessori di Confindustria. Sentiamolo. Abbiamo riscontrato sicuramente un grandissimo aumento nei mesi post lockdown. Adesso assistiamo ancora a una domanda che continua a tenere. La disponibilità di biciclette non è stata così di pari passo con la domanda davvero eccezionale, ma adesso ricominciamo a respirare, ricominciamo a rifornire anche i negozi. Tutto questo ci fa ben sperare per superare o essere intorno, diciamo così, ai 2 milioni di bici vendute per quest'anno. Un incremento maggiore sarà proprio sull'elettrico, visto il grande successo che sta avendo nei negozi. Quindi un incremento che potrebbe arrivare al 20%? È probabile. Ma prima di partire con la nostra carrellata di novità sul mondo delle e-bike, siamo nel pieno della settimana europea della mobilità sostenibile, tantissime le iniziative, ne abbiamo scelta una in particolare in omaggio all'avvio dell'anno scolastico, tutti a scuola in bicicletta, 25 settembre in tutte le scuole che vorranno aderire, promossa da FIAB, Salva Ciclisti, Lega Ambiente e Greenpeace, coordinata nelle diverse città da varie associazioni, e tra queste Bike to School Roma, la coordinatrice Anna Becchi. Viene rilanciata in questo momento a livello nazionale perché ci pare che sia il momento giusto per promuovere l'utilizzo della bicicletta nei percorsi casa-scuola, proprio perché adesso con la riapertura delle scuole dopo il lockdown e gli accessi contingentati sui mezzi rischiamo che le nostre città collassino per troppo traffico e smog. Come si fa un bike to school? Prima di tutto vi consiglio di cercare l'evento Facebook che si chiama Tutti a scuola in bicicletta e dunque il bike to school essenzialmente si fa in gruppo, cioè si va a scuola in bicicletta in gruppo insieme perché così si affronta meglio il traffico cittadino. Si individua inizialmente un referente organizzativo, si decide soprattutto un orario e un luogo d'incontro dove radunarsi, spesso si fa in un bar dove si fa anche colazione insieme, e poi si stabilisce un percorso. Il percorso normalmente è entro i 2 chilometri, diciamo. E poi quello che serve è comunicare questa iniziativa agli altri genitori, insegnanti, bambini della scuola, e si fa normalmente attraverso i canali di diffusione che ci sono nelle scuole, soprattutto gruppi WhatsApp. Durante il tragitto si cerca di andare tutti insieme in modo compatto, gli adulti ovviamente si mettono a schermare i bambini dall'eventuale traffico. Poi soprattutto quello che si fa è che ci si diverte molto. Quindi chiunque voglia organizzare un back to school ci scriva, ci contatti, vada sulla pagina Facebook e noi vi daremo tutte le istruzioni su come fare. E ora, come anticipato, Italian Bike Festival, parliamo soprattutto di e-bike. Tra le novità, il nuovo motore della Shimano, Marco Cittadini, responsabile PR and Communication di Shimano Italia. Cosa presentate all'Italian Bike Festival? La nuova unità di assistenza alla pedalata, volgarmente chiamata motore nel gergo ciclistico, EP8. Diccelo in maniera un po' più semplice. Così. Il componente essenziale che dà vita alle biciclette a pedalata assistita, queste famose e-bikes, che sempre più piede, sempre più mercato stanno conquistando all'interno dell'industria della bicicletta. Quali vantaggi presenta? Innanzitutto alleggerire il ciclista di tutta una serie di fatiche connesse con il pedalare, specialmente quando si tratta di terreni sconnessi come la mountain bike. Vuol dire poter raggiungere vette fino ad oggi magari soltanto sperate, risparmiando tante energie. Chiaramente nella visione di Shimano la bici deve rimanere la bici, che vuol dire che il contributo del ciclista alla pedalata rimane importante, altrimenti si sarebbe comprato una motocicletta o un motorino. Quindi pedalare sì, senza sforzarsi eccessivamente, con un'assistenza che è progressiva, fluente e naturale. E adesso qual è il passo ulteriore che avete fatto? Nuovo motore P8, abbiamo raffinato questi concetti, abbiamo dato più leggerezza grazie a una miniaturizzazione di questo motore, che è più compatto e pesa solo 2,6 kg, che lo fa ad oggi il motore più leggero di tutti i concorrenti che offrono questo prodotto analogo sul mercato. Ha la trasmissione svincolata dal motore, che vuol dire che quando pedaliamo con la batteria staccata in off, questa è libera, vuol dire non ha resistenze all'incedere, che vuol dire che noi pedaliamo ma non sentiamo un affaticamento, non c'è nessun tipo di frizione. Il termine tecnico è trascinamento, e questo ha delle ripercussioni importanti anche nel consumo della batteria, perché se possiamo utilizzare in tratti in pianura o in discesa la batteria in off, cioè staccata, noi risparmiamo batteria. Di contro, nell'utilizzo della batteria nelle tre modalità di assistenza, eco, molto blanda, trail, adattiva, non dimentichiamoci che le mountain bike hanno una cassetta con 11 o 12 rapporti, quindi l'assistenza è funzione dei rapporti che si stanno pedalando. Boost, il massimo livello di spinta, arriviamo fino all'incredibile energia di 85 newton metri, la coppia alla ruota, e questa è una ragguardevole misura della potenza erogata che permetterà a chiunque, qualsiasi sia la propria esperienza di bicicletta, dal neofita all'esperto, di andare di più, più lontano e oltre i propri limiti. E ultima arrivata nel mondo dell'e-bike è la bici da strada, che ancora fatica a dominare la scena. Scott ha lanciato il telaio con assistenza elettrica, più leggero sul mercato fino ad oggi mai realizzato. Abbiamo incontrato sempre a Rimini Guido Camozzi, responsabile prodotto di Scott. Allora, innanzitutto diamo la possibilità anche a persone non più abituate ad andare con la bici da strada, di utilizzare la bici da strada e raggiungere le varie località che prediligono. Quindi è un modo in più o nuovo per dare la possibilità a tutti di andare in bici e fare sport. La nostra Addit Ride ha il vantaggio appunto di essere una bici a pedalata assistita, e che può essere azionata soprattutto in salita con tre diversi modelli di utilizzo del motore, quindi un supporto veramente importante, un intermedio e un basico. Abbiamo tre modelli, anche qui vengono differenziati per quanto riguarda la componentistica, e partiamo da un prezzo da 4.499 fino ad arrivare ai 9.200 euro del nostro top di gamma. È una bici adatta per persone che è già esperte a andare in bici ma che vogliono fare le salite in un certo modo, appunto assistiti dal motore. Quanto pesa? Allora, la particolarità delle nostre bici è sul top di gamma, abbiamo un peso di 10,7 kg, quindi è un peso molto molto basso, e un telaio in carbonio come tutto il resto della gamma, in fibra alto modulo HMX, e a 1,40 kg. Quindi è una bici da corsa, un'e-bike tra le più leggere o la più leggera, sì, sul mercato? È la più leggera sul mercato. E altra cosa che ha in più a oggi sul mercato rispetto ai nostri competitor è la prima bici con tutti i cavi integrati al manubrio. E anche le case motociclistiche guardano con molto interesse alle e-bike. Vent, eccellenza di nicchia in Italia delle moto sportive, entrata quest'anno sul mercato. Due prodotti di altissima gamma presentati ufficialmente a Rimini. Quirico Tironi, amministratore delegato di Vent. Sì, allora il brand Vent proviene dall'azienda Vent, che oggi produce motociclette, che si sta spostando, diciamo, nell'ambito del ciclo. Per cui stiamo lanciando proprio questo nuovo prodotto, prodotto che è la LDV 500, LDV 500R, che rappresenta proprio il primo step della nuova strategia commerciale nel settore delle biciclette. Questo è già in commercio, lo dovete lanciare? No, questo è già in commercio, cioè oggi è la presentazione vera e propria. Dall'inizio settembre erano in vendita, però chi ha potuto vedere le biciclette da oggi che le vede in maniera ufficiale. Qual è la caratteristica? Un'azienda che è nata, diciamo, sul... Sì, è nata sul, diciamo, affiancato il business delle biciclette a quello delle moto. C'è qualcosa, diciamo, di... Per cui ci sono tre brevetti che abbiamo sulla bicicletta. Uno è il brevetto di forma del telaio a doppia culla dove è integrato l'ammortizzatore. L'altro è quello del sistema TST della sospensione posteriore e il terzo è l'integrazione dei cavi e dei fili all'interno del canotto di sterzo. E diciamo queste sono le tre tipologie, cioè le tre caratteristiche peculiari del prodotto e sono tutti i nostri brevetti. Poi c'è da dire che il prodotto è un full carbon, per cui tutto in carbonio, con telaio monoscocca, per cui un pezzo unico di carbonio, prodotto in Italia. Quanto pesa? Siamo intorno ai 19 kg. E l'azienda di dov'è? L'azienda di Lecco è di Introbio, in provincia di Lecco, è nel nord, diciamo, della Lombardia. E una bici così si può dire già quanto... Sì, sì, fare? È sul sito, la vendiamo solamente sul sito che è ventbike.it, è prenotabile, costa 12.390. Insieme alla bicicletta forniamo il servizio di messa in sella, per cui dell'adattamento e personalizzazione della bicicletta sul tuo fisico presso di noi in azienda, e poi te la consegniamo a casa insieme anche all'abbigliamento e al casco, perché abbiamo cercato di fare un servizio esclusivo a 360 gradi. Secondo lei chi è che si compra questa bici? Ma allora stiamo lanciando la bicicletta in due filoni diversi. Uno prettamente sportivo, per cui fuori strada puro, che è la LDV 500RR come Race Ready, che è equipaggiata per essere maltrattata fuori strada. Mentre invece stiamo lanciando sempre un secondo filone dove c'è quella molto più raffinata, col cambio elettronico, con l'alzasella elettronico, con tante peculiarità di tecnologia avanzata, che invece vogliamo lanciare nel mondo della moda, per cui nel mondo City Life Milano, dove oggi, diciamo, crediamo ci sia una nicchia di persone che vogliono l'oggetto bello da poter usare anche in città. Ma sempre più elettriche sono le cargo, meglio le utility bike, come ci spiega Francesco Lombardi dell'azienda Bici Capace. Sono utility bike, quindi danno la possibilità di portare cose, quindi aumentano la funzionalità della bicicletta. Carico quale può essere? L'ho studiata per il carico che le famiglie hanno bisogno quotidianamente, quindi portare delle borse della spesa e dei bambini. La prima nata si chiama Compact Classic, una lunghezza tradizionale di 1,70 m, però ha la funzionalità di una borsa anteriore da 80 litri fissa sul telaio. La ruota davanti è più piccola e ha lo scopo di avere tutto il baricentro, il peso della borsa in basso, quindi si ha un'ottima manovrabilità della bici. Ha la canna bassa, quindi si sale e si scende molto facilmente, gomme larghe per essere sempre molto stabili e si guida in comfort. L'altro modello principale che è nato nel 2016 è la Just Long, la stessa geometria anteriore con la stessa borsa, ma dietro ha una coda più lunga, ha la ruota dietro anche quella da 20, può far sedere i bambini in una posizione molto molto bassa, quindi si riesce ad andare in giro con i bambini senza perdere con una situazione di forte stabilità. E più o meno la fascia di prezzo qual è? Le biciclette muscolari partono dai 1.200 fino ai 2.000 euro e poi ci sono invece quelle buone col motore integrato centrale che partono dai 3.600 ai 5.000 euro. In Italia, insomma, ancora stentano a prendere i piedi, no? Queste bici cargo, tu non le chiamavi così? Sì, diciamo, a me piace chiamare le nostre biciclette utility bike piuttosto che cargo, perché le cargo identificano di solito un mezzo o più lungo di 2 metri, quelle classico col cassone davanti, oppure le tre ruote con un cassone ancora più largo, che quindi non sono particolarmente comode come le utilitarie in ottica automobilistica, sono grosse come dei furgoncini, invece queste qua si avvicinano veramente all'utilitaria, quella che uno usa tutti i giorni ed è molto pratica e comoda. Perché si usano così poco ancora in Italia? Ci sono tanti fattori, tra cui quello ideologico, siamo un po' radicati ancora col settore auto, però secondo me le cose stanno muovendo molto rapidamente, e questo anche grazie sia un po' alle infrastrutture che pian piano stanno aumentando legate alla bicicletta, sia al mondo delle e-bike, quindi avvicinano l'automobilista al ciclista. È un punto di unione secondo me molto favorevole per la bicicletta. E voi cosa pensate delle bici elettriche? Mandateci i vostri pensieri, se volete, via mail o attraverso la nostra pagina Facebook. Vi aspetto la prossima domenica. Buona bici e buona domenica a tutti. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.